I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. C'era da aspettarselo che la politica, alla luce dei dati diffusi ieri dall'Istat su disoccupazione e occupazione, tirasse l'acqua verso il proprio mulino. E così il governo fa notare come tra aprile del 2014 e aprile del 2016 gli occupati siano aumentati di 455.000 unità, ossia siamo tornati a un livello di occupazione 22.634.000 persone che non si vedeva dal maggio del 2012. Le opposizioni dal canto loro hanno gioco facile nel ricordare che la disoccupazione ad aprile è risalita rispetto al mese di marzo all'11,7% contro l'11,5% ed è risalita anche quella giovanile dal 36,7% al 36,9%. Tutto vero e potremmo continuare a lungo leggendo le statistiche tra le pieghe, ma un dato sembra sullo sfondo abbastanza inequivocabile. L'occupazione o la riduzione della disoccupazione non si crea per legge. La legge può agevolare i fattori di contesto, rendere più agevoli le assunzioni, ma se l'economia non riparte in maniera più vigorosa, le imprese non assumono per decreto. Ecco perché sullo sfondo resta il tema, toccato anche ieri dal governatore della Banca d'Italia e la settimana scorsa dal presidente di Confindustria, ossia la necessità di far ripartire un piano di investimenti pubblici e produttivi sulle infrastrutture, sia materiali che digitali, visto che quello di carattere europeo, ossia il famoso piano Juncker, sembra sempre più scritto sull'acqua. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Nell'Europa che vuole costruire muri, la Svizzera, che è fuori dall'Unione Europea, inaugura la galleria più lunga del vecchio continente e accorcia le distanze ferroviarie tra Italia e Svizzera di almeno un'ora, dando un contributo fondamentale al rafforzamento del corridoio merci Reno-Alpi che transita da Genova a Rotterdam. Non a caso all'inaugurazione di quest'opera storica erano presenti i capi di governo di Svizzera, Italia, Germania e Francia. Il tunnel lungo 57 km, costato 17 miliardi, è stato completato nell'esatto tempo preventivato, 17 anni. L'obiettivo condiviso tra Europa e Svizzera è quello di trasferire sempre più traffico merci su rotaia grazie al fatto che si potranno comporre treni più lunghi e più pesanti e il tempo di percorrenza sarà molto abbreviato. Ogni giorno saranno previsti 260 convogli contro i 180 che invece oggi viaggiavano nel vecchio tracciato. Per l'Italia però si tratta di completare le opere di collegamento al tunnel, che potrebbero dare un ulteriore impulso al ruolo strategico del porto di Genova, altrimenti senza quei raccordi anche il Gottardo rischierebbe di essere un'occasione persa. Le stime più pessimistiche però danno il completamento di quelle opere al 2030, anche se un primo lotto di investimenti per 600 milioni è in programma di realizzarle entro il 2020. Lo stato di avanzamento dei lavori però è fermo all'11%. Per dare davvero impulso al traffico merci proveniente dal porto di Genova sarà decisivo il completamento del terzo valico dei Giovi, 53 km di cui 37 in galleria, in programma da 15 anni, con costi stimati di 6,2 miliardi. Finora ne sono stati trovati 2,2 di miliardi e i lavori sono fermi all'11% di realizzazione. Il tempo per concluderli è rimasto fissato al 2021, a voler essere ottimisti, molto ottimisti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.